può essere un semplice istituto così un organizzatore di convegni, ecco, ma vuole presentarsi con una sua fisionomia. Voi questa fisionomia potrete, credo, vederla nei prossimi giorni nella biblioteca, che fa parte integrante di questo seminario, insomma. E non è una cosa, non è un'appendice lontana. Ecco, ormai sono 50.000 volumi, 400 periodici, ecco, quindi l'Istituto vuole affermarsi con una sua struttura, diciamo così, in cui i rapporti terapeutici non sono vissuti in chiave diplomatica, ma come nella ricerca concreta. Also unser Institut ist nicht nur einfach, sagen wir mal, ein Organisator von Kongressen und Seminaren. Das werden Sie vielleicht auch in den nächsten Tagen, wenn Sie unsere Bibliothek sehen, die nunmehr 50.000 Bände hat und sehr spezialisiert ist, sondern wirklich eine Struktur sein, die eben dem Studium dient und nicht nur einfach, sagen wir mal, diplomatischen Beziehungen. Il presidente è il professor Balduska di Vienna, che purtroppo non è qui questa settimana, che sarà qui la prossima settimana perché parlerà sul nazionalismo, argomento che è più vicino ai suoi interessi. Unser Präsident ist der Professor Balduska aus Wien, der leider diese Woche nicht bei uns ist. Er wird nächste Woche bei dem Seminar über Nationalismus hier sein und ein Referat halten, denn das steht ja seinem Studienbereich näher, der mittelalterliche Geschichte. Dei membri del comitato scientifico dell'istituto, della giunta esecutiva del medesimo, siamo presenti io come segretario dell'istituto, il professor Eriz, il coordinatore del seminario, il professor Corsini, il professor Spira, il professor Corsini, ecco, è là in fondo, si è nascosto, in fondo. Ecco, il professor Schiera, ecco, il professor Corsini è ordinario di storia contemporanea all'Università di Venezia, quindi spostato come interesse, diciamo. E il professor Roger, ecco, è nascosto dietro il professor Averka. Ecco. Il professor Corsini è ordinario di storia contemporanea all'Università di Venezia, il professor Schiro è ordinario di storia delle dottrine politiche qui all'Università di Trento e il professor Monsignor Roger, docente di storia della Chiesa nel seminario arcivescovile di Trento. Ecco, questo è la, diciamo, sono in, siamo 12 membri del comitato, siamo presenti appunto in 5. E anche se alcuni di noi, come il sottoscritto, non sono specialisti della, diciamo, del tema trattato, saremo interessati e interessatamente coinvolti in questi lavori e soprattutto a disposizione per tutto ciò che fosse necessario. So, unser Institut, die wissenschaftliche Tätigkeit unseres Instituts wird von einem wissenschaftlichen Beirat geleitet, der aus 13 Mitgliedern bestehen Professoren aus Deutschland, Italien und Österreich. Von diesen sind während dieses Seminars fünf hier anwesend, die, wenn sie auch nicht alle im Thema kompetent sind, doch stets zur Verfügung stehen werden und alles tun werden, um ihren Aufenthalt besser zu gestalten. Es sind außer Herrn Professor Prodi selbst, der Sekretär des Instituts, ist Herr Professor Elze, Herr Professor Corsini, der Ordinarius für Zeitgeschichte an der Universität Venedig ist, Herr Monsignor Roger, Professor für Kirchengeschichte, Professor Schiera, der an der hiesigen soziologischen Fakultät ist, ja, das wäre alles. Ecco, poi il professor Olmi stamattina non c'è per motivi di salute, diciamo, ecco, ma arriverà e sarà anche lui del nostro. Ecco. Poi la signora Karin Rigg Federico, che voi vedete qui, ecco, è l'anima, diciamo, organizzatrice dell'istituto, Oben, a cui tutti si possono rivolgere per tutti i problemi. Ich selbst bin Sekretärin des Instituts und für die Organisation verantwortlich. Mein Büro ist oben im ersten Stock und wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kommen Sie getrost zu mir. Abbiamo parlato della biblioteca, ecco, il bibliotecario è là in fondo, barbuto. im Hintergrund der Unterrede ist der Bibliothekar des Instituts. Fatti vedere. No, per tutti i problemi della biblioteca, per la consultazione, eccetera, Butterini sarà in questa settimana il punto di... Ja, also alles was die Bibliothek anbelangt, Sie Fragen haben, bitten wir Sie, sich an Herrn Butterini zu wenden. E presenta anche la dottoressa Schiera Nobili, che è responsabile dell'attività editoriale. Frau Dr. Nobili Schiera ist verantwortlich für unsere ganze publizistische Tätigkeit, für unsere Annale, für die Redaktion. Io avrei finito. Per la lingua la nostra consuetudine è che ognuno parla la propria madrelingua e si presume che sia capace di comprendere l'altra lingua. Noch einige praktische Hinweise, also was die Sprachen des Seminars für die Diskussion angetrifft, so ist es bei uns braucht, dass jeder in seiner Muttersprache spricht und es wird vorausgesetzt, dass jeder die andere Sprache versteht. L'ideale non corrisponde molto spesso alla realtà. Das ist unser Ideal, leider entspricht es nicht immer der Realität. E tocca ai coordinatori, il professor Ezzi in particolare ha un lungo allenamento in questo, colmare il divario tra l'ideale e la realtà. Grazie. Unsere Leiter oft nachhelfen, besonders Herr Professor Ezzi, also hat in diesem Lauf dieser Jahre ein sehr gutes Training darin erreicht. Ma ci sono anche membri che hanno svolto questa funzione altre volte, e quindi penso che non sarà affatto difficile, insomma, trovare il rodaggio al punto necessario. Es wird keine Schwierigkeiten geben, auch diesmal über diese Klippen hinwegzukommen. Quindi cedo la parola e la presidenza dei lavori ai coordinatori. Bitte jetzt die Leiterin, Vorsitz der Arbeit zu übernehmen. Io dovrei cominciare col richiamarmi al volume che abbiamo già pubblicato sulle città in Italia e in Germania nel Medioevo. Posso cultura, istituzioni, vita religiosa. Posso interromperla? Sì. Lo distribuisco? Certo, va bene. È la settimana di due anni fa, tutti che portano qui. A tutti quelli che sono qui, quelli che sono qui, sia per niente. Dovrebbero esserci a sufficienza. La città è l'organizzazione del territorio in età medievale studiato da Francesca Bocchi, che è qui presente e che nel frattempo è diventata professore ordinario all'Università di Bologna. Poi forme di organizzazione del lavoro nelle città italiane fra età comunale e signorile di Roberto Greci. Le antiche città e la scuola nella città tardo-medievale, un impegno pedagogico organizzativo, non la scuola ad alto livello, ma la modesta scuola di base dove si imparava a leggere, scrivere e a far di conto. Per la parte italiana abbiamo avuto un relatore per ciascuno di questi temi, e che ha considerato il suo problema in un'area abbastanza vasta, direi però centro-nord dell'Italia. Gli studiosi tedeschi invece hanno studiato questi temi insieme a molti altri in alcune città o in alcuni gruppi di città. C'è stato quindi un parallelismo di tematica, sia pure in una differenza di presentazione. Quest'anno l'impianto è diverso. Tema centrale sono i rapporti fra i ceti sociali, rapporti politici e rapporti anche, diciamo pure, rapporti umani, rapporti sociali veri e propri. Sotto il titolo Die Stadt Adel und Bürgertum in Spätmittelalter. Un titolo che è stato tradotto con Aristocrazia cittadina e ceti popolari. E questa traduzione di questo titolo è stata fatta nel convincimento che per le città italiane e per le città tedesche ci sono delle analogie, ma che ci sono anche delle diversità. Diversità che qualche volta rendono difficile la traduzione di certi termini e anche la comprensione. Siamo, ognuno di noi è abituato a certe situazioni locali e fatica un poco ad adeguarsi a delle situazioni locali diverse. Ma in realtà è proprio quello che noi vogliamo fare questa volta. Noi vogliamo far capire che le città italiane sono le città italiane, non la città italiana. Non c'è una città italiana tipo, ognuna è diversa da tutte le altre. Diverse sono le città del nord-est, cioè della pianura veneta, dalle città della Lombardia, dalle città del nord-ovest, che sarebbe quello che noi ora chiamiamo Piemonte. Ma particolarmente diverse sono le città del sud, dove se si verificano altre notevolissime diversità, dove si verificano altre notevolissime diversità fra la parte continentale, cioè Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, e la parte insulare, cioè la Sicilia. Regioni che hanno avuto esperienze storiche diversissime prima di essere riunite nel quadro della monarchia normanno-sveva, di cui abbiamo parlato poi l'anno scorso un poco, di questa monarchia normanno-sveva. E sono state riunite nel quadro di questa monarchia prima di essere separate un'altra volta dalla crisi del Vespro, di cui ricorre quest'anno il sesto centenario. E dopodiché queste si sono separate in due entità politicamente, economicamente e socialmente diverse. Perché la ragione di questa scelta, nord e sud? Io credo che tutti abbiano sentito parlare, diciamo quasi a sazietà, di Firenze. Hanno tutti sentito parlare molto, presa come emblematica, come tipica, come rappresentativa di tutta la situazione italiana. Tutti hanno sentito parlare molto di Venezia, con la sua struttura particolarissima, e forse anche di Genova. Mentre delle città minori, sia della pianura lombarda che della pianura veneta, si è sentito parlare un po' meno. E soprattutto da questo punto di vista non si è mai parlato delle città dell'Italia meridionale. Ora, è evidente che i nostri relatori non seguiranno lo stesso schema espositivo, che ognuno di essi darà maggiore rilievo ad aspetti, a momenti particolarmente significativi, a mettere in risalto analogie e diversità di strutture, analogia e diversità di vicende nei rapporti fra le classi sociali nel nord-est e nel nord-ovest, nelle aree meridionali, il rapporto con il mondo germanico dovrebbe provvedere la discussione, o meglio dire le discussioni, che noi tutti ci auguriamo che debbano essere larghe e coinvolgere un po' tutti, minores o juniores e seniores, tedeschi e italiani, come vuole il carattere seminariale di questo nostro incontro. Dobbiamo cercare veramente di fare questo sforzo di comparazione fra aree diverse, e questo dovrebbe essere il risultato del nostro seminario. A parte poi il contributo che ciascuno dei nostri relatori darà per l'area che si è scelto. Per le città tedesche io lascio la parola al professor Elz, che illustrerà un po' l'impianto della parte tedesco un po' difficile, non è forse la parola esatta, perché abbiamo anche un austriaco, se non mi sbaglio. Sì, ma è comunque la lingua tedesca. Diciamo mondo germanico, ecco. Sprachraum. Sprachraum. Professor Prodi hat schon davon gesprochen, dass es ideal wäre, wenn alle Deutschsprachigen, die hier anwesend sind, alles Italienisch fließend verstehen würden und umgekehrt, wenn alle, die Italienisch sprechen, italienischer Zunge sind, alles Deutsche gut verstehen, dann würde es keinerlei Übersetzung noch brauchen oder solcher Dinge bedürfen. Da ich nun der Erste bin, der in die Verlegenheit kommt, möchte ich Ihnen sagen, dass wir doch bei dem Seminar meistens es so gehalten haben, dass ein italienisches Referat, ein italienischer Text wenigstens kurz in der deutschen Sprache zusammengefasst wird und ein deutscher Text, der vorgetragen wird, kurz in der italienischen Sprache zusammengefasst wird. Zusammenfassen ist immer ein subjektives Geschäft und so ist das eigentlich mehr eine Interpretatio als eine Übersetzung, was bei dieser Gelegenheit herauskommt. Im Mittelalter heißt das ja noch beides dasselbe und auf Italienisch heißt der Dolmetscher Interprete, aber auf Deutsch kann man zwischen Interpretation und Übersetzung ganz gut unterscheiden. Hier ist das dann nicht so leicht der Fall. Ich möchte also ganz kurz wiederholen, was Fräulein Fasoli gesagt hat. Sie sagte, dass wir mit Recht ausgehen mussten von dem, was vor 2 Jahren hier gemacht wurde. Sie haben das Ergebnis in dem Band in der Hand. Kurz gesagt, die verschiedenen Themen wurden im Italienischen, das heißt die verschiedenen Themen des Titels, das heißt Kultur, Verfassung und kirchliches Leben, wurden in den italienischen Vorträgen monographisch behandelt für jeweils mehrere Städte und wurden in den deutschen Vorträgen monographisch behandelt im Sinne, dass jeweils das ganze breite Spektrum von Themen für eine Stadt Gegenstand eines solchen Vortrags war, beziehungsweise in dem einen Vortrag über die Tiroler Städte für eine ganze Gruppe von kleinen Städten, sodass schon in der Verschiedenheit des Ansatzes auch etwas war, was zur gegenseitigen Anregung und zum gegenseitigen Informieren nützlich war. Auch dieses Mal bei dem Generalthema Stadtadel und Bürgertum, wo sich schon die ersten Übersetzungsschwierigkeiten zeigten. Stadtadel kann man gut ins Italienische übersetzen, aber Bürgertum nicht so gut. Da ist es so, dass Fräulein Fasoli, ausgehend von der Tatsache, dass man bei deutschen Historikern Verhältnisse von Städten wie Florenz, Venedig, Genua und dergleichen als mehr oder weniger bekannt voraussetzen darf, wenn sie nicht bekannt sein soll, kann man erwarten, dass solche Kenntnisse leicht erworben werden können, dass sie ausgehend also von dieser Tatsache und von der Tatsache, dass es die italienische Stadt im Mittelalter nicht gegeben hat, gewählt hat, 2 Städtelandschaften sozusagen, die weniger gut bekannt und weniger gut behandelt sind. Das eine ist das nordöstliche Italien, Veneto, also Festland Venetien und die Lombardei, das in den Vorträgen von Herrn Castagnetti und Chitolini vorkommen wird. Und das andere, was ich meine noch viel weniger bekannt ist, nämlich die süditalienischen Städte, die gar nicht unter die Firma italienische Städte, wie es in Deutschland das unter Historikern gibt, fallen. Süditalienische Städte im Königreich Sizilien und Neapel, die nun wiederum zwischen der Insel Sizilien und dem Festland, Kampanien etwa rings um Neapel, so verschieden sind, dass es nötig war, 2 Referenten, nämlich für das Festland Neapel, Professor Cilento, und für das Insel Sizilien, Professor Mazzarese Fardella, zu bitten. So sind die italienischen Themen zustande gekommen. Bei den deutschen Themen ist das ein bisschen anders gegangen. Es war das späte Mittelalter und es kam darauf an, nun nicht das Übliche, wie also die Ministerialen in der Stadt sich langsam zum Patriziat oder Stadtadel bilden und dann Zunftkämpfe versuchen, diese Ministerialen zu beseitigen oder mit mehr oder weniger Geschick darzustellen, sondern es ein wenig auch zu individualisieren und vielleicht auch etwas Neues zu geben. Ich gehe bei der Erklärung jetzt einmal vor, in der Reihenfolge, wie die Vorträge gehalten werden. Herr Haferkorn, der sprechen wird über überlokale Zusammenhänge bei den städtischen Unruhen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, versucht, wenn ich das recht verstehe, so jedenfalls war es verabredet, deutlich zu machen, dass ganz zu Unrecht die deutsche Städtegeschichte sich in der Regel jeder Historiker mit einer Stadt beschäftigt und nicht sieht, was in den anderen Städten geschieht. Und wenn man aber mal eine große Zahl von Städten gleichzeitig betrachtet, dass sich dann manches als eine allgemeine Erscheinung herausstellt, was in der Geschichte der einzelnen Stadt als eine individuelle Erscheinung vorkommt. Und in diesem Falle geht es also bei den städtischen Unruhen um Aufstände oder wie immer geartete Differenzen zwischen den niederen und den höheren Schichten innerhalb der Stadt zu Anfang des 14. Jahrhunderts. Da wir am Mittwochnachmittag in das Museum für Usi e Costumi della Gente Trentina gehen sollen oder wollen, ich glaube, wer nicht will, braucht nicht, aber wir sollten, haben wir gedacht, dass es vielleicht gut ist, Herrn Dillmeier am Mittwochvormittag sprechen zu lassen. Denn Herr Dillmeier soll sprechen zu den materiellen Lebensbedingungen in deutschen Städten des Spätmittelalters. Er hat ein dickes Buch über die Lebensbedingungen und Lebensverhältnisse in den deutschen Städten geschrieben, in dem viele Einzelheiten des Alltags vorkommen, in einer Weise, die, glaube ich, nicht nur mich überrascht und sehr belehrt hat. Und ich war der Meinung, dass ein solches Thema, welches nicht unmittelbar Gegensätze oder Übereinkünfte zwischen Stadtadel und Bürgertum, sondern die materiellen Bedingungen, denen beide gemeinsam und gleicherweise unterworfen waren, behandelt. Wir sollten ein solches Thema hier haben. Vielleicht auch deshalb, ich bin nicht der Meinung, dass in diesem Seminar eine Seite die andere belehren soll, aber wir sollen uns gegenseitig informieren. Vielleicht also auch deshalb dieses Thema, weil meines Wissens ein vergleichbar weites informierendes Thema über die Lebensbedingungen in einer italienischen Stadt oder in italienischen Städten in den letzten Jahren kaum behandelt oder bearbeitet worden ist, obwohl hier die Quellen dafür unendlich viel reicher und ergiebiger wären. Vielleicht kann Herr Dillmeier den einen oder anderen anspornen dazu, nun mal in italienischen Archiven nach dem viel günstigeren Angaben über ein solches Thema zu suchen. Am Donnerstag kommt dann Herr Knittler aus Wien dran mit dem Thema die österreichische Stadt im Spätmittelalter, Verfassung und Sozialstruktur. Zwei Dinge dazu. Es ist so schön zu sagen, Istituto Storico Italo-Germanico in Trient. Es ist schon falsch, wenn man sagt, italienisch-deutsches historisches Institut, denn das Deutsch bezieht sich auf die Sprache und auf die Kultur, aber nicht auf die Politik. Es sind also in dem Beirat dieses Instituts außer Deutschen auch Österreicher, und das ist ganz richtig so. Der Präsident dieses Instituts ist ein Österreicher, und wir brauchen also immer auch den Beitrag der Österreicher, oder umgekehrt, die Österreicher brauchen den Beitrag der Deutschen, wie es im vorigen Jahr war. In diesem Jahr ist also der Österreicher in der Minderheit, im vorigen Jahr waren die Deutschen in der Minderheit, und das wechselt glücklicherweise, es gibt da auch keine Konkurrenz. Aber innerhalb unserer Disziplin ist die deutsch-österreichische Wissenschaft nicht so einheitlich, wie sie hier gegenüber der italienischen Wissenschaft auftreten sollte. Und insoweit bin ich sehr froh, dass Herr Knittler auch für uns Deutsche über die österreichische Stadt im Spätmittelalter spricht, um uns deutlich zu machen, wie die Verhältnisse dort waren, wie selten, oder im Grunde genommen gibt es glaube ich nur eine, größere Städte sind, in denen es wirklich das Problem zwischen Adel und Bürgertum gibt und wie anders das Zusammenleben in den wenigen mittleren und vielen kleinen Städten, die es in Österreich gegeben hat, ausgesehen hat. Schließlich Herr Schulz, dessen Thema das erste war, das ich mit meinen deutschen Freunden und Kollegen ausgemacht habe, als ich noch meinte, ich könne das Thema Stadtadel und Bürgertum für die Hansestädte, für die südwestdeutschen Städte, für die österreichischen Städte und vielleicht für die niederrheinischen Städte abhandeln lassen, also nach einem regionalen Prinzip. So wird er uns nun wenigstens exemplarisch für eine dieser Gegenden, nämlich das Oberrheingebiet, die das Thema Stadtadel und Bürgertum abhandeln. Soweit diese Angelegenheit. Vielleicht sollte ich jetzt, oder wollen Sie es machen? Ja, ho immaginato che aveva il rischio di farlo, mi sono fatta qualche appunto. Sì. Allora lo faccio. Allora, grazie. Noi ci avviciniamo, direi, in modo diverso del solito dal punto di vista italiano e tedesco ai temi. Infatti, come diceva la signorina Fasoli prima, di norma noi consideriamo una città modello italiana finora, e pensiamo che questo modello valga per tutte le altre città. Invece adesso, questa volta, mostriamo che non è affatto così, che, come abbiamo sentito già in italiano, guardiamo le città meno conosciute. Invece, da parte tedesca si fa un altro, ci si avvicina in un altro modo, questa volta del solito, perché la storiografia tedesca è più abituata a vedere le singole città e di sottolineare le specificità delle singole città e di vedere più le differenze tra le singole città anziché le cose comuni. Allora, questa volta invece farà in modo di vedere all'inizio quali sono gli elementi comuni che possono riguardare tutte le città insieme, tutte le città tedesche insieme. E questo è la relazione del professor Atakan, e lui guarderà allora le città tedesche dal punto di vista sovraregionale e cercherà di, almeno ci è stato promesso che lo farà, cioè le rivolte tra i ceti superiori e inferiori, non in una città, rivolte dei momenti di attrito tra questi due strati, non in una città, ma in tutte le città insieme, cioè gli elementi comuni. O per l'italiano io chiedo scusa, io ho il compito di tradurre in italiano, ma voi dovete sentire un cattivo italiano come avete sentito l'italiano non è la mia madrelingua. Allora per questo avete un servizio peggiore di quello che non avrà nel tedesco. E la seconda relazione farà il professor Dirmaier, e lui guarderà le condizioni materiali nelle città tedesche. Come ha detto il professor Elze, il professor Dirmaier ha scritto un libro molto ampio su queste condizioni materiali in cui si trovano i cittadini nelle città tedesche nel Medioevo, cioè nel tardo Medioevo soprattutto, e questa relazione non coinvolge degli attriti, di momenti di difficoltà fra diversi ceti, ma riguarderà tutti i ceti insieme, in quanto tutti quanti sono esposti a queste situazioni materiali in cui vivono nelle città. Professor Enze, da parte sua, ha detto che è sorpreso che simili studi non sono stati fatti in Italia perché le fonti sono molto migliori. Negli ultimi tempi. Prego? Negli ultimi tempi. Ci pare, sì, sì. Bravissimo. Sì, va bene. Tra viventi, spererebbe che fosse uno sprone di fare altrettanto anche per città italiane. Poi la terza relazione non riguarda città tedesche, ma le città austriache, e che è stato detto, noi questo istituto si chiama Italo-Tedesco, ma c'è anche la Svizzera dell'Austria in mezzo, e la relazione del professor Pinta di Vienna darà anche l'occasione di vedere non solo le differenze tra le città tedesche e italiane, ma anche le differenze tra le città austriache e tedesche. O poi alla fine parlerà il professor Schulz, e il professor Enze diceva che il tema del professor Schulz è sulle città del terreno superiore è stato scelto quando si aveva ancora in anima di fare un programma sulla base di scelte regionali. Invece questo non è stato fattibile, allora una ricerca regionale pure c'è, e questa è quella del professor Schulz, che parlerà del XV secolo, mi sembra, no? Delle città del Basso e dell'Alto Reno, del Reno superiore del XV secolo. Spero di aver detto tutto e spero di averlo detto anche in modo comprensivo. Grazie. Adesso ci restano due o tre cose. Prima di discutere, forse, questo, le poche parole che la signorina Fasoli e io abbiamo fatto, bisogna presentare tutti. Wir müssen, bevor wir etwa diskutieren, was Fasoli und ich gesagt haben, uns gegenseitig vorstellen. Das ist wohl das Mindeste. Sie alle haben ein Verzeichnis, zunächst der Relazioni und der Relatori, dann ein Elenco dei Borsisti, dann eine Liste mit Ospiti, und die zwei Koordinatori stehen auch irgendwo ja vorne bei dem Seminario drauf. Die brauchen wir aber, glaube ich, nicht vorzustellen. Ich würde jetzt bitten, dass wir einfach reihum, einer nach dem anderen, den Namen sagen, dazu sagen, ob Relatore, Borsista oder Ospite. Das ist wohl verlangbar, und vielleicht noch zwei, drei Worte über Herkunft, Interessen oder dergleichen, je nachdem, wie Sie es für richtig halten. Ich will also gerne anfangen, oder noch, das muss ich jetzt erst nochmal auf Italienisch sagen, per la presentazione sarà necessario che ognuno dica prima il suo nome, cioè lo facciamo nel giro. Prima il nome, poi la qualifica come relatore, borsista o ospite, e poi qualche parola sugli interessi o la ragione per cui uno è venuto. Ich bin Reinhard Elze, Koordinatore in diesem Fall. Ich bin Fachmann zwar für mittelalterliche Geschichte, aber nicht für Stadtgeschichte. Hoffe, dass Sie das nicht zu sehr merken werden, und will mir jedenfalls entsprechende Mühe geben. Ich bin hier, weil ich zu dem Institut gehöre, sehr gern für diese Art Seminare arbeite, denn diejenigen, an denen ich bisher teilgenommen habe, haben mir sehr viel beigebracht, ich habe sehr viel gelernt, und darum bin ich auch gern bereit, hier mitzuwirken. Io mi chiamo Francesca Bocchi, vengo dall'Università di Bologna dove insegno storia medievale. Io sono sempre occupata di storia delle città, faccio anche parte della Commissione Internazionale di Storia Urbana e di storia economica e sociale. Quindi questo seminario è per me di grande interesse per tutte quelle premesse che ci sono state date finora. All'Università di Bologna e diciamo che i miei interessi vanno alla storia sociale, alla storia feudale, al rapporto tra città feudali e aristocrazie cittadine e quindi la partecipazione a questo seminario sarà molto utile. Dovete dire anche la ospite. Ambe due sono ospiti. E capisco Margherita Tardei, la relatore. Insegno storia del diritto italiano all'Università di Palermo e ho studiato prevalentemente l'età normanna e quella svedese proprio relativamente all'isola di Sicilia. Partecipo a questo seminario quasi costretto dalla signorina Fasoli, la quale mi ha detto che certe diversità andavano dette e mi sono sforzato di adeguare l'argomento a quello generale del tema. Mi chiamo Rolando Donzarini, sono borsista, scolaro della professoressa Bocchi e mi sto occupando di politica fiscale nella città di Bologna e per cui sono particolarmente interessato al rapporto tra i centri sociali nella città. Ich bin Ernst Folter und bin auch Borsista. Bin eigentlich Mitarbeiter an der Universität Trier und Assistent von der Arbeitskammer, aber zurzeit am Deutschen Institut in Rom bin ganz stipendiat, habe meine Doktorarbeit tatsächlich abgefasst, die bald ja, im Punkt erscheint und bin jetzt in Rom an einer Arbeit, einer größeren Arbeit über den zweiten Lombardenbund. Mi chiamo Adelo Scusi e sono un signor storia dell'istituzione generale dell'Università di Trieste. Provengo dall'Università di Berlino, faccio il mio bilinguismo e mi occupo soprattutto della storia istituzionale e sociale e dei simboli e dei segni che distinguono i diversi ceti della società. Mi chiamo Mario Nobile, sono borsista in sostituzione della dottoressa Pescani. Vengo dall'Università di Pisa dove sono assistente, mi occupo soprattutto della propaganda e aristocrazia del secolo XII. Però attualmente sto studiando anche la città di Sarzana nel secolo XIII, quindi sono venuto per questo. Io mi chiamo Giorgio Chittolini, sono un relatore e insegno storia medievale dell'Università di Parma. Io non mi sono molto occupato di storia delle città, ho studiato soprattutto il contado e il territorio e non sono particolarmente esperto. Spero però che questa conoscenza del territorio possa servire a capire anche alcuni elementi della vita politica all'interno delle città. Rafa Kamp, Relatore. Ich bin Professor an der Universität in Trier und zwar zuständig für mittelalterliche Geschichte, allgemeine mittelalterliche Geschichte, und habe von dort aus einen gewissen Zugang versucht zur Stadtgeschichte. Und Sie werden vielleicht in meinem Vortrag merken, dass das also für mich auch ein methodischer Weg ist, von der allgemeinen Geschichte zur Stadtgeschichte. Terrenmeier, Relatore, Norduniversität Mannheim, im Winter Universität Siegen. Ich mache mittelalterliche Geschichte mit dem Schwerpunkt Stadtgeschichte und sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen. Harald Dickerhoff, Universität Eichstätt, ich bin hier Gast, interessiere mich, lehre dort mittlere Geschichte, interessiere mich vorwiegend für mehr geistgeschichtliche Zusammenhänge. Im Moment bin ich beschäftigt mit Fragen, Quellen, Ghibellinen, Ekklesie, Universalität der Kirche und darum freue ich mich, dass ich hier Gast sein kann. heiße Gerhard Rösch und komme aus München, bin hier Bossister und ich beschäftige mich mit dem venezianischen Adel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Ich bin Peter Müller, ich habe in Mannheim Geschichte studiert und bereite eine Dissertation über die religiöse Frauenbewegung des Hoch- und Spätmittelalters, am Beispiel in der Mutters vor, die ab nächsten Monaten discutere proprio anche il titolo. Ja, langsam und laut. Danke. Gabriella Mirzella, borsista, vengo dall'Università di Pisa dove sono aspirante ricercatrice. E mi occupo della topografia di Pisa in età precomunale e comunale, quindi sono interessata a tutti i temi. Sono Maria Luigi Ciccarelli, borsista, assistente del mare dell'Università di Pisa. Sono studiato storia familiare, storia del territorio. Attualmente un lavoro sul clinico del Stato di Pisa e sul socio dell'organizzazione di popolo con più di 200. Mein Name ist Udo Schulz, ich bin Relatore, komme von der Freien Universität Berlin, Friedrich-Meinecke-Institut und habe, wie Herr Esse schon angedeutet hat, besonders mich mit stadtgeschichtlichen und sozialgeschichtlichen Fragestellungen beschäftigt, das Verhältnis von Bürgertum und Industrialität erarbeitet und interessiere mich zurzeit stärker und beschäftige mich stärker mit Fragen zum Gewerbewesen des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Fabio Redi, borsista, ricercatore di archeologia medievale all'Università di Pisa, mi occupo in particolare della città, di storia urbana, in particolare dell'abitazione, quindi edilizia civile, edilizia religiosa, come abitavano, dove abitavano, come agivano sul tessuto urbano questi ceti popolari dell'aristocrazia cittadina. Ich heiße Herr Schnitzler, Volk und Universität Wien, bin Sozialhistoriker. Ich habe begonnen mit meinen wissenschaftlichen Arbeiten im österreichischen Städtebuch, in einem Lexikon zur Stadtgeschichte der österreichischen Stadt und von daher resultiert mein Interesse für stadtgeschichtliche Fragen. Ich habe mich dann vergleichend mit der Dick- und der österreichischen Stadt befasst und gehe jetzt eher über den Problemstellungen der neuzeitlichen Geschichte. Sono Alessandro Barbero, borsista, sono allievo del professor Tabacco a Torino e mi sono occupato soprattutto del regno angioino e quindi sono interessato in particolare alle relazioni sulla città meridionale. Mi chiamo Giulia Fattori, sono dell'Università di Milano e mi sono occupata di storia basso medievale, storia milanese basso medievale, prima di un aspetto di carattere politico concepereschi, mentre adesso mi sto occupando anche di problemi di carattere economico e sociale. Heiße Markus Börg, ich bin Student in München. Neuer Geschichte eigentlich, ja noch schlimmer, Wissenschaftsgeschichte und ich mache eine Promotion über den historischen Tourismus in Deutschland. Interessiere mich aber auch besonders für Sozialgeschichte und hoffe hier aus dem Vergleich italienischer und deutscher Form sehr viel zu erfahren. Ich bin Bossista. Andrea Castagnetti, insegno storia medievale all'Università di Padova. Mi sono interessato di storia del territorio, organizzazione civile, ecclesiastica, storia agraria e storia sociale dall'alto medioevo all'età comunale. Vicende territoriali mi hanno spinto a interessarmi anche di storia sociale basso medievale e questa è la prima volta che metterò a confronto ciò che ultimamente ho studiato. Allora, io sono Gina Fasoli, mi occupo di storia delle città da circa 55 anni, forse... o forse anche un po' di più, e i miei interessi sono andati, no, mi sono occupata, diciamo, del problema del rapporto fra le classi studiando la legislazione antimagnatizia, della fondazione di nuovi centri con i borghi franchi, che sono le cose che ho scritto 40 anni fa e che però sono sempre d'attualità. E insieme con la Francesca Bocchi abbiamo fatto un volumetto sulla città medievale italiana che unisce una parte espositiva, un'antologia critica e un'antologia di testi. Comunque, la città è un grande amore, sebbene mi piaccia molto vivere in campagna. Va bene, abbiamo finito. Ja. Ich danke jetzt allen, möchte aber doch Folgendes sagen. Nicht vorstellen konnte sich Professor Nicola Cilento, der noch nicht angekommen ist. Er ist, glaube ich, der einzige der Relatori, der heute früh hier nicht anwesend ist. Dann habe ich nicht gehört oder habe nicht aufgepasst, Herrn Siegfried Müller. Na, Herr Müller, Augenblick mal, dann kommen Sie mal erst hier in die Runde. Ja, es bleibt ihm nicht erspart. Also, Herr Müller muss nachholen, schnell sich vorzustellen. Dankeschön. Von den Gästen ist, glaube ich, Professor Brezzi noch nicht da, jedenfalls habe ich ihn nicht gesehen. Und ich kenne nicht Professor Ippolgi. Sind nicht da. Brezzi, er ist auch Brezzi, ja, in Ippolgi sind nicht hier. Ich werde rufen, Brezzi. Ja, danke. Im Übrigen sind, soweit ich weiß, jetzt alle vorgestellt, die sonst auf diesen drei Zetteln stehen, die Sie alle haben. Und ich bedanke mich also bei allen, dass Sie sich vorgestellt haben. Nun kommt der nächste Teil unseres Vormittags. Etwas schwierig, weil es immer schwierig ist, das Eis zu brechen. Wer hier vorne sitzt, der muss reden, dem bleibt gar nichts anderes übrig. Es ist also für Fräulein Fasoli, Herrn Brodi und für mich ganz leicht. Weniger leicht ist es für die anderen, als Erster das Wort zu ergreifen oder gar etwas zu kritisieren. Ich sage Ihnen gleich, ich habe es bereits angedeutet, die Tatsache, dass man Stadtadel und Bürgertum eigentlich nicht ins Italienisch übersetzen kann, und dass man dann also als Übersetzung gewählt hat, Aristokratia cittadina e ceti popolari, wäre eine ganze Diskussion wert, bei der vieles über Unterschiede zwischen den internen Verhältnissen oder den sozialen Verhältnissen in deutschen und italienischen Städten besprochen werden könnte. Es wäre aber auch möglich, vorher schon, über das, was Fräulein Fasoli oder ich zum Programm, zum voraussichtlichen Programm unseres Seminars ausgeführt haben, Fragen zu stellen. Ich glaube, Einwände lassen sich gegen das Wenige, was wir bisher gesagt haben, kaum formulieren. Sonst würde ich sie auch gern entgegennehmen. Aber es wären eventuell Fragen zu stellen. Das wären zwei Dinge, mit denen wir anfangen könnten, sozusagen ins Gespräch zu kommen, damit nicht der arme Herr Castagnetti der Erste ist, der dann Kritik und Lob über sich hageln lassen muss, wenn er heute Nachmittag drankommt. Il programma è stato distribuito, il programma definitivo, potevo dire che tutti possono anche segnarsi accanto al... No, sarà adesso in qualche minuto proprio, intervallo... Dann will ich Ihnen wenigstens sagen, heute Nachmittag spricht Herr Castagnetti. Morgen Vormittag spricht Herr Haferkamp. Morgen Nachmittag Herr Mazzarese Cardella. Am Mittwoch Vormittag Herr Dillmeier. Mittwoch Nachmittag ist der Besuch des Museums vorgesehen. Donnerstagvormittag spricht Professor Cilento, Donnerstagnachmittag Professor Knittler, Freitagvormittag Professor Kittolini, wenn er die Martina, Freitagnachmittag Professor Schulz. Sie kriegen das Programm auch hektografiert, aber für alle Fälle sei das also auch schon gesagt. Questa volta lo dico io. No. Lo dice lei. Credo anche che sia stato chiaro. Stamattina possiamo discutere che i titoli italiani e tedesco non corrispondono esattamente, perché per il titolo tedesco non esiste una traduzione esatta italiana, e questo non è un caso fortuito, è una cosa che va discussa se possibile. E poi siamo anche disposti a rispondere a delle domande che si riferiscono al seminario. Forse dovremmo dire perché abbiamo tradotto in questo modo. Forse bisognerebbe dire perché abbiamo tradotto. Hanno telefonato loro due. C'è stata una serie di telefonate. Dobbiamo spiegare noi perché abbiamo dato questa traduzione. Devono domandare loro. Va bene. Allora, va bene, professor Havarka? Ich will einfach vielleicht auch zur Information für die deutschen Teilnehmer fragen, ob für die Koordinatoren nicht vielleicht diese sprachlichen Schwierigkeiten etwas verdeutlichen könnten, wie in der Übersetzung, Aristokratia Cittadina, wie es dort jetzt steht, warum es nicht möglich gewesen wäre, Nobilita Cittadina zu sagen. Denn es gibt ja auch bei uns rein von der Sache her eine Schwierigkeit, Stadtadel und Bürgertum zu sprechen. Denn keineswegs in allen Städten gibt es einen Stadtadel. Folglich entfiel für viele deutsche Städtelandschaften eigentlich dieser Doppelbegriff, also das heißt, es blieb nur einer übrig, Bürgertum im späten Mittelalter. Also genau dieser Kontrast wäre damit aufgehoben. Dopo domanda perché? Perché abbiamo tradotto Stadtadel con aristocrazia cittadina e non con nobiltà cittadina? Sì. L'altra cosa, cioè, devo rispondere io, perché sì. Abbiamo parlato di Stadtadel con Bürgertum, anche se in tante città italiane, tedesche, non è esistito un adel vero e proprio. La prima una parte risponde io, una parte risponde. Dunque, no, ci siamo messi d'accordo sulla risposta che dobbiamo dare. Per noi in Italia abbiamo parlato di aristocrazia cittadina perché è un ceto estremamente composito. Noi abbiamo in Italia, come nel ceto aristocratico, proprietari, fondiari, mercanti, cambiatori. E abbiamo però anche abbiamo anche persone che appartengono a quella che si suole chiamare nobiltà feudale, o perlomeno gente che ha terre e diritti feudali e anche qualifiche feudali. C'è da dire anche che i ricchi proprietari fondiari, i ricchi mercanti, i professionisti anche tendono a comperare terre e avere anch'essi dei diritti feudali fuori della città. È un ceto estremamente composito, ma è anche un ceto aperto, che non ha la chiusura che generalmente è connessa con il concetto di nobiltà, complesso di prerogative sociali che si trasmettono col sangue. Da noi è un ceto aperto e i matrimoni fra queste varie categorie di persone sono molto frequenti. Questa è la ragione per cui abbiamo preferito parlare di aristocrazia per l'Italia piuttosto che di nobiltà. Der Unterschied zwischen Nobiltà und Aristokratia liegt jetzt, muss ich ganz stark vereinfachen, was Fräulein Fasoli schon vereinfacht hat, darin Nobiltà ist erblicher Adel und Aristokratia ist also eine besondere Vorzugsstellung, die nicht nur auf Adel, also auf geerbtem Adel Geburtsadel, sondern auf Reichtum, auf Handel und Ähnlichem beruhen kann, die dadurch entsteht, dass die reichen Leute sich Grundbesitz kaufen, damit in das Lehnswesen eintreten, das also eigentlich eine Charakteristik des Geburtsadels ist. Und darum hat Fräulein Fasoli vorgezogen, Aristokratie zu sagen, weil das eine offene Bezeichnung ist, während Nobiltà eine geschlossene Gesellschaft wäre, von der man im Hinblick auf die italienischen Städte in dieser Zeit nicht sprechen sollte. Herr Schulz. Wäre es da nicht konsequent, in Anwendung dieser selben Gedankengänge auf deutscher Seite von städtischen Führungsschichten oder städtischem Patriziat zu sprechen, nicht dem Begriff der Staatsadels, der teilweise eine sehr starke Verengung einer Führungsschicht zum Gegenstand haben kann, aufzuerlegen? Die Schwierigkeit ist die, die Themen werden festgelegt im Comitato Scientifico. Da kommt so ein Thema aus der Luft und noch eins und noch eins und dann wird überlegt, welches davon nehmen wir und dann steht das eine Thema fest. Dies war in diesem Falle Stadtadel und Bürgertum. Ja. Entschuldigung, meine Frage zielt ja auch nicht darauf, Ihre Kritik an dem Thema zu üben. Oh, die kritisieren Sie ruhig. Ich wollte ganz einfach versuchen, ob wir nicht so etwas den Rahmen abklären können für dieses Gespräch untereinander, damit wir etwas uns einig werden können über die Grundbegriffe, die wir verwenden wollen. Und insofern hatte ich das einfach nur in die Richtung. Das scheint mir also in der Tat eben ein Problem zu sein, jetzt von deutscher Seite aus betrachtet, was also hier schon angesprochen wird, ich will das einfach nur wiederholen. Wir haben einen sehr vagen Begriff von Stadtadel auch bei uns in Deutschland. Wir wissen im Grunde nicht, was das eigentlich ist. Zunächst einfach das Grundphänomen in einigen Landschaften existiert da überhaupt nicht. In einigen Städten bestimmter Landschaften, in denen sonst der Adel existiert, existiert kein Adel. Wir haben also dann darüber hinaus eben ein weites Feld von Leuten, die zwar in Urkunden außerhalb der Stadt, zum Beispiel als Ritter bezeichnet werden, Urkunden innerhalb der Stadt, werden sie nicht genannt oder von offizielleren Urkunden werden sie nicht genannt. Das heißt, wir haben also ein Scheinproblem insofern, als die Quellen in dem einen Fall dieselbe Person als Ritter bezeichnen, im anderen Fall ganz einfach wie andere, etwa Schöffen, also die Mitglieder dieses Führungsgremiums, als Domini. Also das ist ein Grundsatzproblem für die deutsche Stadt überhaupt, insbesondere im 13. und 14. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert, darüber müssten wir dann reden, scheint sich da einige Veränderungen zu ergeben. Und so, wenn ich das also wiederum von meinen ganz groben Kenntnissen der italienischen Städte sagen darf, ergeben sich dabei wiederum exakt dann doch gewisse Angleichungen oder doch Fragen des Vergleichs, über die wir da natürlich später reden sollten. Aber mir scheint das so wichtig zu sein, dass wir vielleicht vorher uns darüber einig werden, wie fragwürdig eben auch der Begriff Stadtadel für uns ist und dass er eben keineswegs in der Forschung abgeklärt ist und dass man sich darüber reden sollte. Il professor Haferkamp dice che il concetto di Stadtadel nel tedesco è un concetto non definito bene e devo confessare che per me è stata la ragione per cui non l'ho toccato, perché proprio l'apertura per tutte le cose era buona. Städtische Führungsschicht significa una cosa che si capovolge in alcune città del 400. Die Führungsschichten sind nicht mehr Führungsschichten und dann darf man sie auch nicht mehr so nennen. Stadtadel sind sie immer noch, mit dem ganz vagen Begriff von Stadtadel. Credo che proprio questo argomento, cioè della differenza tra una e l'altra città, e in Italia e in Germania sia proprio l'oggetto del nostro seminario. Glaube, dass also gerade die Tatsache, dass man auch Stadtadel nicht genau definieren kann, weil es in Nürnberg anders aussieht als in Basel und in Basel anders als in Hamburg, einfach ein nützlicher Begriff ist, weil er so ungenau ist. Chitolini? No. Ja, la sigaretta. Herr Dickerhoff. Ich habe eine Frage wegen der zeitlichen Eingliederung. Nicht der Begriff Spätmittelalter in der jenischen, die immer wieder aufgespaltete, eta kommunale, eta signorile. Und es scheint mir doch so, dass unser deutsches Spätmittelalter, das ja zeitlich später liegt, vielleicht, oder sagen wir mal umgekehrt, dass in die entscheidende politische Relevanz der Auseinandersetzung etwa zwischen Aristokratia cittadina und Ceti Popolari in Eta Signorile in Italien schon ausgespielt haben. Man müsste vielleicht, oder so könnte man sich vorstellen, dass zeitlich verschoben die Themen im italienischen Bereich im deutschen Bereich behandelt werden sollen. Professor Dickerhoff dice che c'è una certa come si dice discrepanza tra, non c'è una sincronia perfetta tra le città italiane e le città tedesche, ma questo è il problema che abbiamo sempre in questi seminari, che l'Italia è prima della Germania, noi siamo un po' indietro, però abbiamo fatto l'esperienza che la comparazione di cose dell'Italia trecentesca con cose della Germania quattrocentesca possono anche dare dei risultati utili e proficui. Wir haben die Erfahrung immer gemacht, dass bei dem Vergleich zwischen italienischen und deutschen Verhältnissen, ob das die Universitäten sind oder die Städte oder was sonst hier für Themen behandelt worden sind, eine gewisse Zeitungleichheit da ist, dass aber eben doch der Vergleich des zeitlich nicht gleichzeitigen durchaus nützlich und förderlich sein kann. Wir haben bei der Vorbesprechung unseres Seminars uns vorgenommen, wesentlich das 14. und 15. Jahrhundert ins Auge zu fassen. Aber Sie sehen, dass also bei den italienischen Themen gelegentlich auch von der Età Comunale die Rede sein musste, obwohl die im 15. Jahrhundert schlechterdings nicht mehr existiert, sondern eben vorbei ist. Dann heißt es Età Comunale e Signorile, eben das Zeitalter der Kommunen und der Stadtherren, weil es für das Spätmittelalter im herkömmlichen Sinne, wo das Mittelalter 1500 endet, eben nicht anders ging. Non so se... Io potrei aggiungere una cosa. Se ci fosse il professor Cilento, ci direbbe che le città della Puglia hanno avuto una vita autonoma o con tendenze autonomistiche ancora prima delle città dell'Italia settentrionale. Un movimento nell'Italia meridionale, un movimento autonomistico che è stato stroncato dalla dominazione normanna, mentre invece il professor Mazzarese Fardella ci può dire che la situazione in Sicilia è di tutt'altra natura, perché c'è stata la dominazione musulmana che ha impedito qualsiasi sviluppo della vita municipale delle città romane, anche in un momento difficile. Abbiamo veramente, anche noi in Italia, abbiamo molte discrasie cronologiche, però ci sono certi lineamenti comuni, sia pure in epoche diverse, che ci permettono di fare dei discorsi comparativi. E per l'Italia meridionale, per delle città per esempio pugliesi, noi non abbiamo nell'epoca antecedente alla dominazione normanna, non abbiamo una Stadt Adel, ma una aristocrazia cittadina che è fatta di funzionari, di mercanti, di proprietari terrieri. Non abbiamo ancora signori locali, non abbiamo ancora signori feudali in Puglia prima della venuta dei normanni. Sono situazioni che dobbiamo cercare di capire nelle loro diversità. Ich möchte das eigentlich nicht übersetzen. Fräulein Fasoli spricht so deutlich Italienisch, dass ich glaube, das verstehen alle. Ich gebe mir Mühe, möglichst deutlich Deutsch zu sprechen und hoffe, dass das auch alle verstehen. Va bene. E poi avremo allora, abbiamo finito di parlare dell'aristocrazia cittadina, Stadt Adel, oppure dobbiamo continuare? Lo continueremo per 5 giorni, credo. Sì, questo certo che continueremo, ma a questo punto, Andrea Castagnetti, per esempio, la sua aristocrazia cittadina? La mia aristocrazia cittadina è già stata nel titolo secondo della relazione, sempre provvisoria perché non sarà definitiva la relazione. Parli adagio. Talmente modificato da sparire. Ed è divenuto, infatti, rapporti fra società e politica, o meglio fra ceti popolari, ceti sociali e gestione dinamica del potere politico, nella città della marca veronese trevigiana, in età comunale o signorile. Quindi direi che non possiamo facilmente parlare di novità e anche possiamo con difficoltà parlare di aristocrazia nel periodo che va dal XII al XIV secolo, quindi XII, XIII, XIV secolo. Vi è un'evoluzione complesse. Io ho cercato di sintetizzare in tre periodi, naturalmente schematizzando al massimo. Il primo periodo, ma qui entro nel tema della relazione. Sì, no. Ma è inevitabile. Per cercare di dare un po' di comprensibilità a ciò che diciamo. Nel primo periodo, pur nelle differenze fra le città di un'area geografica che ha una sua connotazione pubblica, che è quella della Marca Veronese, che come tale rimane fino, perdendo sempre più naturalmente la sua funzionalità, rimane fino ai primi decenni del secolo XIII. Sarà con Federico II che essa si trasformerà anche territorialmente nella marca trevigiana. Ora, nelle città della marca esistono situazioni differenti e avvengono quindi anche processi da un punto di vista sociale differenti, che sono dovuti, secondo me, soprattutto ai punti di partenza differenti. E appunto per questo io ho deciso di puntare l'attenzione soprattutto su due città, e perché sono le maggiori, le città più città della Marca, e perché sono veramente nella loro evoluzione differenti l'una dall'altra. E sono differenti a lungo. Anche in momenti in cui la rapida evoluzione sociale e politica parrebbe portarle a punti di contatto. E questa differenza, torno a dire, ma parlo un po' a ruota libera adesso, consiste proprio nel punto di partenza diverso. Le due città, all'inizio del secolo XII, nel momento in cui si comincia a intravedere un'azione politica in qualche modo autonoma, per cui le cittadinanze, attraverso loro rappresentanze occasionali o stabili, iniziano ad esprimere una propria volontà politica, a incidere proprio sul terreno politico, in questo momento le due città hanno due storie diverse. E le due storie diverse, di Verona e di Padova, sono dovute in gran parte al diverso rapporto che il centro cittadino di Verona, la città, in senso stretto di Verona e di Padova, hanno avuto con il loro territorio, con il loro contado, con il loro comitatus. Mentre per una, per Verona, nei secoli precedenti vi è sempre stato un'unione, pur nella diversità fra la città e il contado, a Padova questa unione fu spezzata nei secoli alti medievali. Questo portò a far sì che all'inizio del XII secolo in Verona vi sono elementi che gestiscono la vita locale e anche esprimono volontà politica, tendenze politiche, scelte politiche, che provengono da ceti diversi, ma sono accomunati fra di loro dall'essere proprietari terrieri dotati frequentemente di diritti di giurisdizione. E in questo senso potremmo parlare di aristocrazia. Sono andato molto lontano, ma non potevo fare altro. Un'aristocrazia che, pur allargando i suoi ranghi, pur immettendo uomini, chiamiamoli così, nuovi, come avverrà continuamente nei secoli seguenti, mantiene fino al quarto circa decennio del secolo XIII, o meglio all'inizio dell'esperimento ezzeliniano, all'inizio della dominazione di Ezzelino III da Romano, nell'epoca di Federico II, mantiene dei connotati che possono essere considerati relativamente stabili, pur nell'allargamento dei suoi componenti e nella diversa provenienza sociale. Perché abbiamo famiglie di tradizione pubblica che hanno esercitato il potere con funzioni pubbliche o legandosi a funzionari pubblici, pensiamo ai conti, ai visconti, agli avvocati, agli stessi capitani, alcuni capitani veronesi, sono pochi, probabilmente sono legati allo stesso, ma non è mai stato accertato, allo stesso potere imperiale. Abbiamo delle famiglie che provengono invece, questo è da personale da già parecchio tempo, ne parlava e ne scriveva, e è rimasto ancora fondamentale il suo contributo, il Simeoni all'inizio di questo secolo. Abbiamo delle famiglie che provengono dai mercatores, si richiamano mercatores a tutte le lettere, nei documenti, non c'è dubbio. Ebbene, nell'anno 1100 una famiglia di mercatores acquista in denaro contante dal ramo bavarese dei marchesi estensi un castello, una curtis, due chiese, immettendo velocemente, possiamo dire, nel ranghi di quella che era l'aristocrazia cittadina e rimanendoci per sé. Per dire una situazione. Se poi andiamo invece a una situazione posteriore della metà del XIII secolo, vediamo che le cose sono cambiate. Ma se posso parlare un altro momentino, non so se valga la pena, mi dica lei, signorina, se dovete importa chiarire, ecco, Andrea, sì. Importa chiarire l'adesione della, sì, l'esattezza del termine aristocrazia piuttosto che nobiltà, sì, per noi. Diciamo che il termine stesso, il termine aristocrazia è un termine naturalmente da noi foggiato, perché non li troviamo nella documentazione, certo, del XII secolo. Ma neanche nobiltà. Ma non troviamo neanche nobiltà. Quello. Diciamo che il termine di nobile inizia timidamente ad apparire nella documentazione alla fine del XII secolo, ma molto raramente, con alcuni viri nobiles, un attributo nobilis assegnato alle persone di maggior rilevanza sociale e politica della città. Ma un secolo dopo, o due secoli dopo, ad esempio, lo stesso titolo di nobilis, di nobile, viene assegnato a persone, a membri di famiglie, che sono o recenti, di recente formazione, relativamente di alcuni decenni, di diversa estrazione sociale, naturalmente sempre con importanti funzioni politiche e posizione sociale importante. Immaginiamo la definizione di nobile alla fine del XII secolo ad un rappresentante del ceto signorile che abita in città ma che esercita funzioni di esercizio di giurisdizione del contado, e immaginiamo invece due secoli dopo, faccio un contrasto così improvviso, un paragone improvviso, immaginiamo due secoli dopo il titolo di nobile attribuito ad un membro di una famiglia che si è formata e che ha raggiunto posizioni sociali e politiche elevate ed anche economiche al servizio del signore in quanto signoria cittadina, al servizio ad esempio nel Veneto degli Scaligeri o dei Carraresi. In che, se noi dall'attribuzione della qualifica nobile ad alcune persone, che non è quasi mai, per quanto mi consta, sistematica, passassimo all'estrapolazione del concetto di nobiltà, cioè questi sono i nobili, quindi questa è la nobiltà, un procedimento che potremmo anche fare, anche se io lo ritengo forse da non fare, noi potremmo vedere che in secoli diversi, in situazioni sociali e politiche diverse, la nobiltà è costituita da famiglie diverse che si sono formate politicamente, chiamiamole così, che hanno avuto un loro iter politico diverso, come sono diversi i tempi che le vedono protagoniste. Non so se così sono riuscito meglio a entrare in argomento. Quindi forse il termine aristocrazia potrebbe essere più adatto proprio perché è un termine per quell'epoca nostro, che sta a designare chi appartiene, credo, a un, chiamiamolo, ceto politicamente dominante, e che si trasmette anche in parte, ma non è elemento essenziale, la posizione politica e sociale anche per via ereditaria, ma non è questo il fattore discriminante per la loro appartenenza al ceto dominante. Adesso dovremmo far parlare Mazzarisi. In pochissime parole. Perché quando noi siamo nelle città siciliane ci troviamo in una situazione tutta diversa. E io vorrei dire che la domanda del professor Haferkamp e la risposta dei coordinatori ci ha detto che aristocrazia cittadina è una necessità ontologica, deve esserci. Una nobiltà cittadina può invece mancare. Nella mia relazione io cercherò di riferire proprio su questo fenomeno siciliano. La mancanza di una nobiltà cittadina e la scarsezza di testimonianze circa la aristocrazia delle città siciliane. Es scheint doch eine Beziehung in italienischen Städten so etwas zu geben wie eine Erblichkeit. Die Magnaten, gegen die sich die antimagnatistische Gesetzgebung bei Bologna und Florenz richtet, so indem ich ja ihren Artikel verfasse, die werden ja doch quasi erblich behandelt. Eine Familie als magnatistische. Und auch wenn sie sozial abgesunken ist, auch wenn sie ihren Reichtum verloren hat. Hier ist doch ein Stück, diese Familie muss nicht unbedingt aus dem Adel im eigentlichen Sinn behandelt wie Erbadel. Non molto, non molto, ma papà lo dice. No, ma ad alta voce, professoressa. Sì, è meglio che il professoressa lo dica ad alta voce, sì. Sì, allora il professor Tikhonov domanda, se non fosse stata nelle città italiane una specie di, diciamo, alto rango ereditario, anche nel caso in cui la posizione sociale era caduta, e lui si riferisce ai magnati e ha letto negli articoli famosi della signorina Fasoli che la legislazione antimagnatizia si riferiva non soltanto ai magnati potenti ma anche ai membri delle famiglie dei magnati che non erano più potenti. Però non sono sicuro che abbia letto bene. Entschuldigen Sie, Herr Dickerhoff, ich fürchte, Sie haben es nicht gut gelesen. Die antimagnatistische Gesetzgebung richtet sich nur gegen Mächtige, aber nicht gegen Schwache. Und wenn Sie 10-mal Kinder von Magnaten sind. Diese Familien gelten immer als Magnaten. Nur wenn sie reich sind. Soltanto come magnati è una parola che indica gente ricca, potente e prepotente e che commette arbitri o che li commette o che li potrebbe commettere. C'è proprio il senso della grandezza, il senso della prepotenza. Allora vengono perseguitati dalle leggi antimagnatizie. Ma non contro quelli che appartengono a certe famiglie. A certe famiglie impoverite, se sono impoveriti non sono più potenti, non danno più noia a nessuno. Questo è il concetto della legge antimagnatizia. Quindi, appunto, come diceva, forse la lettura non era stata giusta. Non troppo esatto. Sì. Ma io devo dire che ho fermato l'attenzione sul titolo, non era tanto per verificare una certa differenza tra l'aristocrazia e la nobiltà, l'adel che c'è nella città del titolo del tedesca e l'aristocrazia, quanto piuttosto nel fatto che nel titolo del nostro seminario, relativamente alla presentazione italiana si parli di aristocrazia cittadina e ceti popolari. Cioè mi pareva che forse si potesse parlare di ceti urbani e basta, in un certo senso. Perché? Perché forse quella E non so se vuol dire, giustamente poi forse peraltro, una sottolineatura di certi ceti sociali che emergono, di altri che cercano di emergere, di altri che trovano momenti di declino e forse anche contrasti fra questi ceti sociali. Quindi, in un certo senso, non ho pensato minimamente a questo punto di contrasto che poteva esserci fra le due impostazioni, quella relativa alle città italiane e quella relativa alle città tedesche, quanto piuttosto proprio al fatto che secondo me si doveva parlare di ceti urbani, e basta, cioè in cui naturalmente a seconda dei momenti, anche nell'ambito del tardo medioevo, anche in epoche più alte, ci sono naturalmente delle evoluzioni, dei cambiamenti molto, molto forti, Per cui l'aristocrazia cittadina, io credo per esempio del 200, non è l'aristocrazia cittadina del 300. Per dire come c'è un'evoluzione, c'è una continua dinamica sociale all'interno. Quindi io credo che questa formulazione sia giusta, nel senso che sia per la strada della tedesca, sia per l'aristocrazia cittadina, noi utilizziamo due termini, due parole, che ci permettono di intenderci di che cosa vogliamo parlare, più che definire con troppa precisione delle formule che non distinguono particolarmente nulla, proprio data la diversificazione molto forte che c'è fra una città e l'altra, per non parlare fra l'Italia e la Germania, e soprattutto fra un'epoca e l'altra. I ceti popolari, se io devo parlare di ceti popolari, non so, per il XII secolo, ho naturalmente alcune perplessità, e non sono certo i ceti popolari del 200 o del 300, e c'è passata tanta evoluzione sotto, tanta capacità da parte proprio dei ceti popolari, che io vedo, scusatemi se uso un termine che ormai è consumato e consumatissimo, però io non dimentico che nel Duomo di Pisa c'è una celeberrima iscrizione in cui si parla di maiores medii pariterque minores, che è certamente una per noi oggi medievalisti di oggi consumata, però credo che rappresenti veramente questi ceti che qui si vogliono indicare come aristocrazia cittadina e ceti popolari, che sono poi termini nostri, attuali per intenderci, formule per capirci. Ecco. Possiamo anche dire che nei documenti troviamo i nobiles populares. Quando si parla di nobiles populares è l'aristocrazia cittadina che ha una certa provenienza. Questo sono certamente termini che noi usiamo per intenderci. Ci sono poi però delle differenze, si allude con Adel, Stand Adel e aristocrazia cittadina, alludiamo già alle situazioni particolari italiane e tedesche. Questa è la realtà, e che ci siamo trovati a dover formulare questo. E siamo perfettamente d'accordo che quei maiores, mediocres et minores indicavano una stratificazione sociale. Il problema poi viene fuori, se dell'aristocrazia abbiamo già detto qualcosa, perché la Bürgertum è diventata ceti popolari. Sono problemi abbastanza connessi. Sono abbastanza connessi, ma c'è sempre l'espressione linguistica che, mentre anche la Bürgertum indica un ceto ben definito per origine e per nascita, per noi anche i ceti popolari sono ceti che si rinnovano continuamente con l'immigrazione dal contado, perché per le città italiane è difficile fare la storia delle città se non teniamo sempre presenti i rapporti con il contado, di cui la città si rinsangua e che la città riconquista e ricolonizza, direi, sotto molti punti di vista. Ma qui entriamo in un campo diverso, perché noi vogliamo vedere quello che succedeva, mi pare, nelle città, anche vogliamo vedere quei rapporti di torbidi, di contrasti fra due ceti, l'aristocratico, quello che comanda e quello che non comanda, quelli ceto che vuole invece avere il potere. E in realtà nei titoli di queste relazioni la parola potere ricompare. È il potere che vogliono, e chi ha il potere diventa automaticamente una nuova aristocrazia. Chiaro, deve essere tradotto, no? Che i ceti popolari da noi sono estremamente eterogenei, perché abbiamo abbiamo quegli elementi popolari che sono organizzati nelle compagnie di mestiere, nelle corporazioni, abbiamo poi anche tutta una massa d'urto che è di gente che non è iscritta nelle corporazioni, ma che è usata, strumentalizzata di momento in momento quando ci sono dei tumulti. Eterogenei anche quello, gli interessi degli iscritti alle grandi corporazioni di mercanti o di cambiatori non sempre coincidono con quelli delle persone, dei lavoratori che so io, che commerciano in salumi, in formaggi o in sale, per quanto ci siano poi i grossi problemi del vettovagliamento. Le grandi corporazioni della lana hanno uno straordinario potere, in certe città ne hanno meno in altre. I notai hanno un grande potere in alcune città, in altre, per esempio a Pisa, sono nella stessa corporazione con quelli che lavorano il cuoio, perché tanto notai e cuoiai adoperano sempre delle pelli sotto forma di pergamena o di cuoio per fare le suole. È vero o no questa cosa di Pisa, che è una cosa veramente assurda? E quindi sono dei ceti veramente molto eterogenei, anche i ceti popolari. Sono espressioni di comodo che noi usiamo e con la consapevolezza che mai nessun termine si adegua perfettamente. Herr Schulz, sprechen Sie möglichst langsam und deutlich. Sehr langsam. Deutlich darauf hinweisen, dass der Begriff des Stadtadels in der deutschen Literatur auch ein Kunstbegriff ist. Ein Begriff ist, der auch in der Fachliteratur nur sehr selten benutzt wird. Und man trifft ihn eigentlich in oberdeutschen Städten gelegentlich an und möchte dann vermuten, dass hier eine besondere soziale und rechtliche Situation vorliegt, aber das ist in den meisten, nur in ganz wenigen Fällen so. Es ist also so, dass wir in vielen Städten den Begriff Stadtadel überhaupt nicht kennen, obwohl die Phänomene, die entgegentreten, durchaus sich nicht von den Städten unterscheiden, die den Begriff Stadtadel in ihrer Literatur führen. Das ist also ein Verwirrspiel, was einem dort entgegentreten kann. Aber dennoch halte ich den Begriff für recht interessant als eine mögliche, einen möglichen Begriff zur schärferen Analyse, weil sich doch zwei Gruppierungen innerhalb der städtischen Führungsschicht und des Patriziats in vielen Städten unterscheiden lassen, die tatsächlich dann teilweise mit dem Begriff des Stadtadels schärfer umrissen werden können. Dabei würde man aber nicht mehr die gesamte städtische Führungsschicht behandeln, sondern nur noch einen Teilbereich dieses Patriziats, den man dann spezifisch als Stadtadel bezeichnen könnte. Aber das wird man im Laufe der Tagung sehen. Es hat keinen Zweck, jetzt inhaltlich das näher auszuführen, aber den Hinweis zu geben, dass wir mit dem Stadtadel keinen klar umrissenen Begriff haben, sondern dieser ganz unterschiedlich und schwankend in der deutschen Forschung angewandt wird. Professor Scholz dice anche nella terminologia tedesca lo Stadtadel è un termine de facto, un termine provvisorio che non descrive un ceto ben definito, che è diverso, che viene utilizzato nella storiografia della Germania meridionale, ma altrove non viene nemmeno utilizzato, ma che può dare spunto per definire meglio quali sono i ceti dirigenti nelle diversi paesaggi cittadini della Germania. Se la discussione generale è finita, con molto anticipo, diciamo, forse mi scuso per il vuoto che stamattina c'è, Ecco, perché anticipare i castagnetti mi pare che no, sacrifichi la risposta. No, lo sacrifichiamo poi i castagnetti se lo facciamo adesso. No. Quindi adesso andiamo a vedere la biblioteca. E il giardino. E il giardino, già che è una bella no, riparto. Sì, credo che prendere contatto con la biblioteca e vedere certo. Possa essere utile per nei giorni scorsi poi i giorni prossimi. Poterla, nei giorni prossimi poterla utilizzare e poterla sì. Spero che sia la cosa migliore. Di modo per la colazione si parte all'1 di qui, non prima perché il pranzo è pronto per l'1 e 15. Ein Viertel nach Eins. Wir werden vom hier Eins pünktlich. Wir werden jetzt erstmal hier aufhören. Jetzt Herrn Castagnetti sprechen zu lassen, würde heißen, dass man ihm die Zeit stiehlt. Denn dazu, seinen Vortrag zu diskutieren, hätten wir keine Zeit mehr. Und es ist besser, wenn Sie, sofern Sie hier neu sind, aber erst recht diejenigen, die hier schon bekannt sind, den Rest des Vormittags benutzen, um sich die Bibliothek und den Garten, den sehr schönen Garten dieses Hauses anzusehen. Um 1 Uhr brechen wir auf zum Mittagessen. E a che ora cominciamo il pomeriggio? Alle 3. Und um 3 Uhr heute Nachmittag nach dem Essen beginnen wir wieder mit dem Vortrag von Professor Castagnetti. Ja, also, il ristorante è a 10 minuti a piedi, quindi andremo a piedi insieme. Sì, però insieme. Sì, insieme.